È che vi faccio questa sera di ragionare, di provare a pensare sulla ruota, questo che è un oggetto della nostra quotidianità. Noi siamo pieni di ruote dappertutto. Io, che ne so, stamattina entravo in casa, ho provato così a considerare, a guardarmi le cose che ho intorno ed è pieno di ruote dappertutto, dall'aspirapolvere, dalla lavatrice. Cioè questo oggetto che poi è anche un elemento, no? Perché tutti gli oggetti che noi abbiamo intorno, no? Dalla panca, dalla sedia, dalla porta, della travolta, è vero che sono degli oggetti, ma poi creano come qualcosa di più sottile, no? Che si distanzia dall'oggetto. Pensate per esempio alla ruota, ci riflettevo prima, che all'interno questo oggetto... diciamo che da sé produce anche un elemento rotante, cioè anche una cosa che non è ruota, io facendola girare la metto in una specie di, se mi viene questa parola, di spiritualità di ruota, no? E quindi è anche ruota ed elemento e il ruotare, no? Delle cose, e è qualcosa con cui noi abbiamo continuamente a che fare. E ruota ce ne sono di tantissimi tipi, come scrivevo anche così sull'email, no? Anche fare così una stupidissima ricerca su internet, no? Ci sono ruota panoramica, la ruota del pavone, ruota degli esposti, la ruota ti porta da qualche altra parte anche, ecco, facendoti ruotare. Altro elemento, certo, come la ruota panoramica, appunto, ti porta su e tu puoi vedere dall'alto qualcosa, no? Sì, guardi la città. In Cina hanno fatto un ristorante che interamente ruota su se stesso, e mentre mangi guardi e vedi tutta Pechino, no? Per esempio. E il principio rotante è qualcosa che si muove, però sta anche imperniato su qualche cosa, no? E questo, se ci pensate, è anche un elemento così anche filosofico, no? Il muoversi, però stare fermi su qualche cosa, non è un andare a zonzo, un perdersi, la ruota comunque gira e un centro... Quindi ti riporta allo stesso punto, insomma, sì, sì, non certo. C'è pericolo, no? Esatto. Ed è una cosa che si ripete in tutto l'universo. Il esatto. Ruotare della Terra intorno al Sole, a ripetersi delle stagioni. Certo. Il fatto che abbia permesso di spostarsi da una parte all'altra senza muoversi. Sì. Perché sì. Tu su, è il primo mezzo che ha permesso all'uomo, stando fermo, di muoversi. Eh sì, certo. E come diceva, ad esempio... anche qui fuori le nostre auto, no? Piene di ruote, le ruote portano via, portano lontano, come diceva Valerio, no? Poi applicate a una strada, per esempio, una ruota ti fa fare molte più, noi riusciamo a correre più veloci del ghepardo, insomma, per dire, no? Grazie alle ruote, ai nostri meccanismi. E in più, sì, la ruota gira, fa attrito e ci porta lontano, ma la ruota può essere anche un ingranaggio, quindi che si incastra con altre ruote. Vedete che le ruote ci sono veramente dappertutto. È incredibile pensare che una volta non c'erano, perché io ho ragionato anche nel nostro corpo, non ci sono elementi molto rotanti, qualcosa sì, perché sì, la rotula, in senso ideale sì. In senso ideale sì, però non fisicamente. Fisicamente non ci sono veri elementi a forma rotante, no? È curioso, quindi veramente l'uomo se l'è dovuta inventare in qualche modo, non so, è difficile immaginare come. Nemmeno nella natura non ci sono rotte proprio, ci sono le cose circondarie, però la cosa del rotto è la cosa che è cambiato, che non serve energia. Per andare avanti non devi lavorare nel senso fisico, devi lavorare che serve energia, devi andare avanti in rotto, perfetto, non serve energia. La frizione del materiale sotto, che credo questa è la differenza, penso che la differenza fra il rotto serve molto meno energia, che non esisteva nella natura né nel corpo, quanto lo sono in nessun posto, certo, creato gli esseri umani, forse è nostra fregatura. Beh, non esisteva nella natura, diciamo, la natura vicina, ma appunto, come dicevi, la ruota, la Terra gira intorno al proprio asse. Gira intorno al Sole, cioè, la galassia. Quindi noi viviamo, la Terra, dove il luogo dove siamo, no? È, cioè, si basa sul principio della rotazione, con un perno centrale che è proprio l'invenzione della ruota, cioè, sì, perché la ruota è quello, è un punto centrale. Sì, no, ma proprio la Terra, limitiamoci alla Terra. La Terra gira intorno al proprio asse. Cioè noi in questo momento stiamo andando velocissimi, appoggiati da una parte, 1900 e stiamo girando. Eh sì, ecco. Andiamo a 1900 km all'ora. Il Sole, non stiamo fermi. Sulla pianeta non c'è un ruolo, c'è solo la sfera. Se inclusa dal Sole c'è un ruolo, però la sfera della pianeta, di Terra. La Terra gira attorno al proprio asse. No, la Terra gira da solo così, intorno al Sole. No, ma gira attorno al proprio asse. Gira così. Poi il movimento di rivoluzione. Noi pensiamo gira, la Terra non gira. La Terra fa così. La Terra fa la giornata così, dalla mattina alla sera. No, non è una gira. Il Sole è il movimento. La Terra non gira. La Terra fa sempre esteso. Però quando fa intorno al Sole, questo è sempre che non sta girando. Sì, non ma sta quelle girando. Sono. Sì. C'è un movimento di rotazione, un movimento di rivoluzione. No, non ruota. La Terra non ruota, la Terra va così. Questa è una rotazione, non sta girando così. Quelle sono le stagioni, no? No. Quelle sono le stagioni, estate, primavera. No, quella è il tilt del ma appunto, girando attorno al Sole in questo modo qua, sì. Tecnicamente la Terra non ruota. Non va bene, però quello che interessa appunto è che ci sia il concetto di centro, diciamo, certo. No? Di un centro e di una roba rotonda, no? che gira attorno a questo centro in maniera equidistante, no? Tutti i punti della circonferenza sono equidistanti dal centro e questa roba qua appunto, no? Ci permette di essere agganciati a un centro, no? È quello il concetto. Ed è una cosa che ci dà un sacco di insomma, no? Pensiamo appunto, no? di tranquillità, come no? Cioè che non ci se restiamo agganciati a questo centro, noi torniamo sempre allo stesso punto. Che non è della ruota. Esatto. Che non è proprio intorno. Noi non siamo. Ecco appunto, abbiamo inventato questa cosa che ci dà molta molta sicurezza rispetto alla nostra insicurezza invece naturale. È una cioè cosa che, certa. Ecco, è una cosa sì. certa, no? Esatto. No, se penso come l'uomo abbia potuto inventare, l'essere umano ha potuto inventare la ruota, mi vengono in mente per esempio adesso così al volo due modi, o quando ha imparato a tagliare gli alberi che rotolava in qualche modo ha visto che c'erano delle fette che potevano rotolare, oppure ho pensato se, quando ha imparato magari a fare della pasta, no? E faceva queste sfere, poi le schiacciava, ecco che poteva venire fuori una forma rotonda tipo ruota, no? Quindi chissà come se la sono inventata in realtà, chissà. Però manualmente probabilmente. Io ho visto alcune pietre che sono molto rotonde, anche schiacciate, le avevo viste lungo i fiumi, ogni tanto si possono vedere. Facendo una pietra che rotola da un dirupo, e non è una circonferenza, non è una ruota, cioè è una sfera, no? Un po' irregolare. Però potrebbe suggerire sì. l'idea potrebbe muoverla probabilmente sì, sì. Ma poi è stata la prima rivoluzione se sì. pensi a Creta sì. che hanno utilizzato per la prima volta il come si chiama quello per fare i vasi il torno per fare i vasi certo, i vasi anfore, l'olio dentro e facevano girare velocemente la creta per dare la forza movimento rotatorio. Posso fare una domanda all'architetto che è qui? Ne abbiamo due di architetti. Ah, è vero. Sì. Nell'architettura non ci sono c'è qualche oggi o da qualche tempo come insomma questa circonferenza o è sempre tutto molto lineare? Statico. Ma non in movimento, come voglio dire, come stile, anche fermo. Siamo stati nel tempo sempre affascinati dalla sfera, quindi dal cerchio, anzi penso che sia la forma primaria più alta, il Pantheon, scusate se ci pensate. Le volte sono tutte basate. È il monumento più efficace per dare questo senso, probabilmente perché c'è l'idea dell'universo come una sfera, una cupola, poi certo. Fisicamente se voi vedete il cielo, per la profondità che dà l'idea di sfera, quindi penso che tutti gli architetti da sempre. Quindi la cupola è il maggior riferimento. Sì, cioè tutto quello che è stato costruito di diverso dalla cupola è una forma umana, mentre penso invece che l'aspirazione più alta d'altronde è il Pantheon proprio, no? Tutto quello che era un monumento concepito come il più alto possibile è d'altronde, guardate le cupole delle chiese o comunque anche delle moschee, c'è sempre questa forma. Diciamo ideale della sfera, quindi okay. Si torna sempre all'idea più alta del cerchio, e poi c'è tutta la questione del 3-14, complessa la questione. È statico, poi arrivate alle ruote, perché la sfera non è la ruota, la esatto. Sfera è una cosa statica. Sì, modo. Anche se ha delle cose del comune. Cerchio. Sì, parte del cerchio, però poi c'era nell'architettura c'erano le idee dopo, o anche appunto anche prima, perché anche in Sardegna l'ho trovato di Sarmi nel 4.000 anni fa, anche usato il sistema di movimento, significa perché una sfera, un cerchio è fissa, non muove, poi Borromini la cosa ha cominciato di muoversi, però anche prima hanno fatto le antiche. Dopo la sfera c'è il movimento, perché la sfera è fissa. Poi è diventato l'ovale e le cose che hanno cominciato di muoversi in un'architettura che ha cominciato di trasportare di un parte di un'altra. Anche le graticelle non sono di sfere e non sono di fisse, sono di portare il tuo occhio sempre più veloce verso un cima, perché sono un logaritmico, sono le sequenze delle cose con logaritmico in cui vai 1, 2, 4, 7, 14 per creare movimento, perché se tu vai 1, 2, 3, 4, 5 non c'è movimento, la sfera è quello, non c'è tecnicamente niente. Iniziato i primi architetti, anche prima, anche dopo, adesso tutti usano il movimento, l'architettura deve portarti da un punto di vista visuale e questo è chiamiamo più architettura moderna, perché c'è movimento. Andiamo, rispostiamo, sì. Adesso sì. Va bene l'architettura, architettura arte visiva, e qui abbiamo una persona moderatore che è non vedente, e quindi questi ragionamenti vorrei spostarli un po' appunto su un piano più astratto, no? più del pensiero, più dell'emozione. E dell'emozione, una cosa che mi veniva in mente prima sul concetto di volta, di cielo, no? Quindi questa cosa, torniamo invece alla ruota, proprio perché la volta è un'altra cosa. E la volta a me dà l'impressione che comporti un soggetto. Un soggetto che poi è quello al centro della sfera, diciamo. Ok? Mm-hmm. Quindi uomocentrica la cosa, no? Ecco, allora questa cosa appunto è curioso, no? Che questa cosa delle cupole delle chiese, no? Quindi questa cosa che dovrebbe invece sfondare, no? Al contrario, no? Cioè spostare noi stessi oltre noi stessi, finalmente, no? Bombard, invece in realtà ancora più ci porta soggetti, no? Cioè noi là dentro, noi che guardiamo il cielo, non il cielo che si mostra, noi che guardiamo il cielo, e la forma della volta della sfera la facciamo noi dal nostro punto di vista, no? Ecco. Per cui invece, ecco, tornando alla ruota, è quello invece ce l'ha lei il centro, cioè non siamo noi non siamo al centro quando siamo in macchina, noi non siamo il centro della ruota, no? La ruota ha il suo centro, attorno al quale gli ingranaggi hanno il loro centro, attorno al quale girano, no? Sì. È una ruota, diciamo, assoggettata a degli scopi di tecnologia, di movimento, no? Però torniamo al titolo di questa sera. Com'è, Marco? Il titolo è Muoviti restando fermo e scoprirai la ruota. Questo, infatti, per me questo è un po' il concetto filosofico che c'è sta dietro alla ruota. Sarebbe interessante cercarlo anche. Un po' tutti gli oggetti hanno una loro filosofia interna, quella della ruota mi pare un po' questo, insomma. Pensate, un'altra forma di ruota potrebbe essere, per esempio, noi prima di venire qui abbiamo eseguito delle musiche che si chiama la Roda Gishoro. Cioè è una musica brasiliana che si suona stando intorno a un tavolo, intanto si mangia e si suonano i propri strumenti. Una ruota, anche in questo caso, vedete qui, ruota viene più usato in senso di proprio di circolo, no? Come dire, di riunione, di stare bene insieme, la tavola rotonda, che ne so. C'è anche questa espressione della sacra rota, adesso non l'ho mica, che è questa specie di consesso importante, no? All'interno, un po' anche segreto, no? All'interno della Chiesa, che giudica, riesce ad annullare i matrimoni tramite alcune leggi che hanno loro dentro. Quindi ruota in senso di circolo, no? di riunione. Anche noi qua potremmo, mettendoci in cerchio, potremmo dire che siamo la ruota di via del conservatorio, no? Sì. Quindi la ruota, c'è anche questo che ritorna il concetto di ruota, di volta, cioè di uno stare insieme. No, però io lì lo distinguerei fra volta e ruota. Cioè la ruota, noi non siamo al centro della ruota. Quando si dice roda, si lascia, diciamo, un soggetto che è esterno alle persone che partecipanti della ruota, no? Che sono equidistanti dal centro. Dal centro, ma c'è un centro che è il loro interesse. Che è il loro interesse, forse, non so che cos'è, di volta in volta è una cosa, sono varie cose, no? varie cose che cambia, fra l'altro, no? Che si modifica, che no, adesso il Papa ha detto che sarà più semplice annullare la sacra rota, farà meno problemi nell'annullamento di matrimoni, no? Sarà più semplice, più economico anche, pare, no? Ecco, curioso, sì, non so cosa vorrà dire questa cosa in questa che dura sacra... poco questo Papa che dura poco questo Papa, sì. Però ecco, quest'altro che è il centro della ruota a volte può anche essere qualcosa di sconosciuto, no? Cioè qualcosa per cui le persone che fanno parte di quel consesso lavorano, si occupano, se ne occupano e cosa, ma magari non lo... può essere anche un qualcosa, un'idea, una certo. ricerca, una che loro hanno, no? Sì. Beh, per la rotonda era la cavalleria, per esempio, no? Ecco, era l'uguaglianza tra i partecipanti. Ecco, sì. Anche. Oppure, no, oppure ecco. In inglese hanno tu sei una parte di rotta, significa che tu sei una delle schiave non conoscente che fai delle spine che sostiene il rotto, però siamo tutti schiavi. Ah, facciamo parte dell'ingranaggio, sì. Sì, tutti quanti facciamo parte dell'ingranaggio. Sei un anello. Molto drammatico. Sì, molto in questo caso c'è allora il fato, il destino, oppure come? Il ruota ricchetto. Esatto. È vero, no? Evidente di quello, cioè sì. Interesse di che? Evidente, io volevo fare un'osservazione, sì. È vero che la cupola pone l'individuo e si pone, diciamo, al centro, ma in effetti c'è un'immanenza, scusate, la ruota è un elemento di uso, la cupola no, sì. La cupola è un momento di grande concentrazione, è vero su di sé, ma anche di immanenza, di qualcosa di più grande, sì. Di te. Quindi questo ti fa girare, ma ti porta sempre al punto di partenza, sì. Non esci dal loop, come si dice, è vero. Perché sì, questo dicono... non ti fa progredire sul rapporto che c'hai con l'universo, perché su quello bisogna fare i conti. È vero. Puoi credere o non credere in un essere superiore, ma porca miseria che c'hai, quello si sta scoprendo l'antimateria e tutto quello che stiamo pensando, vuol dire che quegli uomini così che si ponevano lì, magari con questa cupola pochino troppo individualistica, era però la missione che esisteva, se no non era un monumento, un qualcosa di incommensurabile che non capivano. Oggi la fisica, d'altronde pensiamo all'acceleratore che abbiamo a Ginevra, e quella è una macchina, è una ruota spaventosa, sì. E là dentro però, essendo sempre una ruota, va in loop, ma sta concependo il mondo, è un diverso che la ruota, perché lì in effetti entra un gioco, cioè lì c'è il cerchio e la cupola, perché sta al centro di un pensiero, come dicevi tu, molto bello quello, perché tutti stanno intorno alla ruota, però in effetti c'è l'immanenza del cosmo, che poi che cos'è? Una doppia cupola, perché se non vorrei fare troppo l'architetto, la sfera, e Boulez ha fatto un'opera che in effetti è una sfera, perché per l'architetto il massimo sarebbe, anche per i non vedenti, che sarebbe bellissimo pensare che sanno che si sta in uno spazio universale, è una cupola dentro cui tu cammini, ma la gravità ti condiziona, se no cammineresti senza avere il problema del dire i piedi ce l'ho qua. Perché c'è una macchina pazzesca che lo può fare. Quelli che fanno gli esperimenti per andare in gravità fuori hanno un sistema rotante, l'abbiamo visto in Kubrick, no? Quell'effetto lì. E quindi torniamo sempre al fatto che la ruota o la sfera sono legati da un fatto, come diceva l'architetto, che c'è una struttura geometrica pazzesca che rimanda continuamente, quindi è l'unica forma dinamica della geometria, perché in effetti non hai un angolo, non hai un punto di fermo, potresti andare all'infinito e girare fino a creare una sfera. Moebius che ha fatto l'anello infinito, no? Cioè il nastro. Invece uno lo giri così e a quel punto continui a girare all'infinito. Non parte, non parte. Questa io ho una versione diversa di questa, che era sconosciuto prima della sfera, il medievale, anche Borromini e tutti gli altri dopo, hanno detto alla sfera, perché la sfera nel Rinascimento non era una cosa per arrivare, come tu hai detto, arrivare al cielo, non era. Era per rimanere nel centro. Infatti San Pietro non era questa cosa davanti, nel centro di Michelangelo era per mettere un uomo nel centro, era una cosa molto egocentrica, mentre prima loro usavano queste cose che erano molto più, vai nelle chiese medievali ti porti al centro, se vai al Pantheon e al San Pietro e sono una sfera, non si va da nessuna parte. Quello che cominciato di andare così ti portava un'altra cosa. Io è molto più sofisticato padre gotico, e altri parlare, sì, e lui sa che tutte queste meno di noi, perché l'energia dentro una sfera appartiene più al suono. Se tu vai lì dentro si può sentire, si può parlare con una persona dall'altra parte, si sente perfettamente. Certo. Si sente il, se tu vai, io ho fatto un ristorante di più cupola e erano già lì e le gente, io potevo parlare con lei mentre migliaia di persone dentro stavano parlando per il suono. Io capisco questa cosa perché il suono non è necessario di tenerlo. No, infatti. E fra l'altro ogni area, ogni luogo, no, c'ha la sua caratteristica. Allora l'altro giorno stavo, insomma, c'era un concerto di musica, diciamo, del Settecento, e quindi con archi e fiati, e una persona che io conosco diceva, ma era in una chiesa, no? Questo come giusto che sia, fra l'altro, perché queste cose venivano scritte per essere eseguite in chiesa, la maggior parte di queste cose, e quindi col riverbero della chiesa. E questa persona mi diceva, ma io non, c'è una confusione qui dentro, c'è un suono molto confuso, non riesco a seguire le note. Allora, incredibile, no? Oggi non abbiamo più le orecchie che ci permette, no, di molti di noi, che ci permettono di godere, di ascoltare, no, quel tipo di musica scritta in quel modo per quel luogo lì, che va che si mischia in quel modo lì, no? Pensate, un organo, il suono dell'organo suonato rapidamente in una chiesa è un bordello, no? Che arrivano tipo alcuni 2, 3, 4 secondi dopo, appunto, alla fine, appunto, no? dalla musicista. E oggi invece noi vogliamo il suono pulito, no? Siamo abituati, insomma, in cuffia, no? Suoni distinti, no? Certo. Cioè, quindi sto ragazzo era buffissimo, non avevo mai assistito, insomma, questo ragazzo che ha 25 anni mi diceva, ma che casino, ma non si rendono conto che non si capisce niente di quello che suona? Curioso. Quando Marco mi ha scritto di questo argomento, io ho avuto una visione, che è quella del film di Kubrick, a cui lui alludeva prima, no? Dove c'è questa astronave a forma di ruota. Io quel film l'ho visto che avevo 9 anni, e per me rimane ancora un grande mistero quell'astronave, che non, nessuno ha mai realizzato se non a forma, diciamo, di parallelepipedo, no? Quindi un'astronave che è come se una ruota che ha la gravità, però nel vuoto, gira, perché gira? E ci sono quelli là svegli e quelli ibernati, quello sveglio cammina contro il ruotare per fare jogging, no? Cioè, sì, a me rimane un grande mistero questa astronave che gira nello spazio, ma gira... Ma perché imita tutte le forme dell'universo, sì, tendono ad essere... Ma cosa la spinge? Perché gira? Quello che non è per creare la gravità. Perché la gravità? Perché la rotazione crea gravità. Ah, ecco. Ma infatti c'è il giroscopio come meccanismo che crea delle forze che equilibrano addirittura i movimenti, per esempio un pendolo. Esatto, se tu c'hai un meccanismo che lo contrasta, può avere una forma di forze contrastate che cambia. Quindi nel vuoto si può creare la gravità con la rotazione. Certo. Sì. Ma tant'è vero, appunto, l'astronave classica che si vede in Kubrick, no? Quando c'è quella l'astronave rotante, è un prototipo ideale di un meccanismo che prima o poi si farà. E quello crea il ruotare una gravità, diciamo così. Non c'è come artificiale. La gravità terrestre la vedevo in modo pure metafisico, che c'è anche quello, come se camminasse sull'aria, no? Su un tappeto in esilio, però c'è ragione perché non sappiamo esattamente il concetto della gravità, anche lì non spiega la ruota ha questo rispetto a su te stesso. Via, che ora? Ancora. Alle 8. Alle 5. Alle 5. A mezzogiorno. Aspetta che stanno cercando una cosa. Non sigarette. Le sigarette, forse. No, la borsa, dove ci sono le sigarette. Un orologio al mondo. Sempre nel centro, no? Di Marco, allora. Sì, vi dicevo che questo oggetto ha un, rispetto ad altri, ha questa particolarità. Platone avrebbe detto che c'è l'idea di ruota nel cerchio, che il cerchio è l'idea della ruota, no? E in effetti c'è questo principio geometrico, no? Che la rende anche molto metafisica, molto. Infatti è molto facile filosofeggiare, no, sulla ruota. Mi ricordo che sulla porta, anche lì, però eravamo più sul poetico che sul filosofico della porta, anche se poi le sono... Era un po' che un simbolo fortissimo. Sì, certo. Cercare adesso di chiedervi se, facendomi anche un esempio, proviamo a riportare invece la ruota proprio come oggetto. Quando è, mi chiedo, nella vostra vita un episodio che voi ricordate in cui siete stati a stretto contatto con questo, a contatto anche proprio fisico importante con questo tipo di oggetti. Io vi racconto un episodio che riguardava la mia, quando ero all'asilo. Da noi all'asilo per giocare ci davano i pneumatici, dei piccoli pneumatici. Che li sono dei pneumatici? Tires. Yeah. Esatto, li spargevano per il cortile, e quando si uscivano i bambini ognuno andava a prendersi il suo pneumatico, la sua ruota, e che poi le avevano dipinte anche, no? Quindi ci si affezionava, quando io uscivo cercavo il mio, quello che ritenevo la mia ruota, no? E poi c'era questa usanza, il gioco di noi bambini era prendersi questa ruota e farcela girare davanti, andare in giro per il cortile. Io mi ricordo che girando questa ruota io avevo questo oggetto che c'avevo proprio in mano, mi ricordo che mi aveva... c'ero in stretto contatto, ecco, era una cosa molto quotidiana, molto normale, ma anche molto misteriosa, molto bella, no? Ti affezionavi e il suo unico scopo in questo caso era girare, non dava, non è che si andasse più veloce, perché la facevi semplicemente ruotare davanti a te, no? Ed era una strana pratica, io non ho mai sentito in nessun asilo che facessero così, da noi sì, ma e niente, era un modo per cercare di riportare la ruota anche come oggetto semplicemente molto quotidiano, no? A parte la sua filosofia che c'è dietro, ecco. Mi chiedo se avete degli episodi in cui la ruota... Ma anche nella nascita noi rotiamo nella pancia della mamma, no? Cioè proprio da lì, oppure il primo approccio appena esci dall'utero è con una tetta che ha una forma tonda, anche se non se ne va in giro ma rimane attaccata a tua madre. A proposito di nascite, stavo vedendo questa cosa che hai scritto sulla ruota degli esposti, no? Ah sì. E anche lì c'è la rotazione che ti porta da un'altra parte completamente diversa, no? Sì. Dalla mamma ti porta in un sanatorio, no? Ruotando. Ti garantisce sì, anche l'anonimia, l'anonimato. Sì. Quindi il non farti vedere, sì. Io invece ho un ricordo a proposito di quella ruota delle suore di clausura da bambino. Mi impressionava tantissimo questa cosa. Che in questa ruota qua si potevano mettere degli oggetti e ci si scambiava degli oggetti all'interno del convento e appunto dentro c'erano queste suore di clausura e a me c'è queste persone che non, no? Che vivevano senza contatto con l'esterno, senza, no? Io ero rimasto molto colpito, insomma ero bambino e mia madre mi portava la domenica appunto a trovare qualcuno in questi a portare qualcosa, forse dei dolci, chissà cosa portavamo, non me lo ricordo. C'era sta ruota che girava, appunto io sapevo e sentivo la voce, ah ecco, c'era la voce dall'interno e ci si parlava, no? Ma non ci si vedeva. Questa cosa mi aveva molto impressionato. E la ruota? Nella struttura dove era questa, dove c'era la ruota? Suore di clausura? Sì, ho capito tutto, però dove sta la ruota in questa? E questo è un come una specie di vasca. Ah, c'è un tipo di porta che era una forma di sfera. E è quello che parlavano prima, dove si lasciava il neonato, il bambino, no? Era rotante. Ah, questa è una cosa di catolismo. Tipo quello degli alberi, insomma. Sì, sì, è una cosa. È un modo per passarti un oggetto. Era una porta, come in una banca invece di avere una Esatto. Scatola. E lì si lasciavano i figli del peccato, venivano lasciati lì. Così non si vede chi l'ha lasciato. Sì, certo. Ma che cattiveria! Invece di adesso li lasciavano i secchioni, no? È una porta in cui non si vede chi entra e chi lascia. Chi c'è dentro e chi ne c'è. Ma quella è proprio spaventosa. Poi leggevo che... Però ecco, di nuovo, queste però sono più porte, andiamo alle porte. Esatto. Però era una porta rotante. Si uniscono le cose. Sì, si uniscono. Si chiama ruota degli esposti, non porta. Sì, si chiama ruota, sì, è ruota, vero. Ruota. Io lo immaginavo come una specie di vasca che girava, adesso io non l'ho mai vista ovviamente, non so come sia stata fatta. È come questo tavolino, ma c'ha le pareti, no? Ecco, le pareti che si alzano. La parete sarebbe il diametro, no? Esatto, e una parete c'ha un foro, no? Ecco. E quindi quando gira il foro va di là, quando di qua e di qua. Era una forma di comunicazione. Come quei cilindri in cui entriamo per entrare nella banca. Uguale. Io mi sulla tua osservazione, avete notato che ha detto che cattiveria. Che cattiveria. E qui, scusate, posso un momentino per una parentesi? Certo. Ne avevamo parlato prima con te, no? Adesso penserai che io sia un papista. Il problema è che le nostre grandi culture si confrontano sempre su questo principio. È cattivo consentire a una madre, che ovviamente forse magari ucciderebbe quel bambino, di lasciarlo in modo discreto, in modo che dall'altra parte qualcuno si alludeva la mamma. O sono meglio le grandi culture del nord, tipo la Svezia, che facevano degli infanticidi? Sì. E allora ritorno al concetto che è la controriforma, il peccato che tu vai lì e contratti. la forma di la prima psicanalisi della terra, dire sì, ho fatto tutte queste schifezze, però domani ricomincio, è molto meglio, quindi è meglio un occultamento psicanalitico cosciente piuttosto che un'oblazione totale che dice no, non è possibile, quello lo deve vedere che l'ha fatto lui. Era un oggetto di privacy. Bravissimo, hai fatto centro, perché in fondo la nostra cultura è vero che sembra cupa, però in effetti lascia uno spazio per cui l'individuo, molto bravo, può trovare una forma di compromesso, per cui la storia di clausura è vero, ma vogliamo anche dire quante storie straordinarie il Boccaccio ci ha insegnato, che nei conventi veniva la sensazione libera, quindi continuiamo a pensare non sono, appunto, questi il nostro numero uno. Esatto, cioè, a proposito sì, di... Ma adesso ormai è superato, allora era bello, era veramente... Come dire, no, beh, ma non è tanto superata. Non è peggio, diciamo, io ricordo che era molto curativo. A me, proprio così proprio un pezzo di testa. Era liberatorio. Infatti, bravo. Era liberatorio. Questo che voglio dire, perché bisogna pure uscire da questo schema. Boccaccio, la storia inizia. No, ma poi attenzione. Ha aperto una porta, tu le hai aperto una porta, ma tutti. Sì, sì. I figli del peccato, comunque, di solito erano figli di nobili. Sì, il nobile con il non nobile. Esatto. Okay. No, quindi due stati che si incontrano, esatto, in quel figlio concreto vive continuamente e vive senza genitori. A proposito di psicanalisi, è una gran figata. Cioè, crescendo, scusate, volevo dire libero da esatto, libero da patologie familiari. Esatto. Ma quello è qua se ricollega i dors e quello di padre da madre. Quello. Cioè, vediamo ogni tempo alla sua maniera di superare le contraddizioni. Non è facile, no, ma noi sappiamo che nel Settecento a Napoli si faceva molta più vita che nelle cupe tundre della Svezia, scusate, questa storia incominciamo a riscattarla, no? Sembra che noi siamo qui paleolitici quando noi abbiamo avuto tutto prima di tutti, scusate, io vorrei riaffermare questo concetto, e beh è così, no? Di questa culla della civiltà che poi adesso sembra che sia stata oscurantismo, non è così, guardiamo quello che sta succedendo in questi giorni, no? Questo che sta succedendo dimostra che in effetti ci sta un problema aperto. L'umanità deve ritrovare, insomma, un pochino di libertà in più, guardando la storia nel giusto equilibrio. Anche di comprensione. Sì, sì, però alla ruota mi piace tornare facendo una battuta carina. Invece per esperienza mia la ruota della cuccagna, adesso non vi vedo. Ma è molto carino. Io quello dell'albero. Perché ero piccolo e dicevo, vedi che bella invenzione, la cosa che ecco, sentiamo com'è. Ce la racconti la ruota della cuccagna? Perché noi sappiamo l'albero. E cos'è la ruota di cuccagna? C'è sopra, E com'è? C'è una ruota. Sì, ecco. La ruota di cuccagna, io non mi vedevo. Dunque è un palo, è un palo, diciamo che aveva sopra appunto una ruota e aveva appeso diciamo nei vari dove si potevano appendere con dei ganci, c'erano dei salami, cose anche lì spesso davvero. Io vedo un albero di Natale con i regalini dentro. Beh, però questo però forse è arrivato. Siccome aveva la possibilità poi di essere colpito con ma le altre ne dava con tutte le cose che no, questo perché è un palo e c'era proprio questo. E si usava per che cosa? È perché una persona poi bendata doveva colpire alla cieca a cercare di colpire, quindi c'era la possibilità della variazione di quello che tu potevi prendere una cosa come un'altra. Era un modo per creare una sorpresa, no? Sì, esatto. Io invece ricordo che in alcuni film della vecchia Roma c'era la ruota, io la chiamo della vergogna, dove attaccavano un uomo che aveva fatto un qualcosa. Ah, era una tortura quella, una forma di tortura. Sì, infatti era la gogna. Ma era bellissima questa cosa. Cioè, invece di sparare in piazza uno, lo attaccavano lì e tutte le persone che passavano, quello ha rubato. Io volevo raccontarvi di un quadro di De Chirico che forse qualcuno di voi ha visto, dove c'è una bambina che sta correndo con un cerchio, è una mazzarella che fa costiera e la fa correre, la spinge. È un quadro che mi ha folgorato. Chi l'ha fatto? De Chirico. De Chirico. E pensavo, pensavo che questa ruota non va esattamente dove la bambina vuole, perché intanto perché lei non può guardare tanto avanti, perché deve continuamente fare animarla. Poi la ruota, a seconda della scritta del terreno, prende delle vie, quindi la può portare in posti inaspettati dove può trovare qualcosa. In questo caso la ruota non è usata come mezzo di trasporto con un obiettivo, però porta, però la bambina, porta la bambina in luoghi dove può trovare qualche sorpresa, bellissimo, terribile. È vero, è per questo che mi ha sempre perturbato questo qua, questa immagine. Quindi vedi, l'invenzione della ruota dà sicurezza, no? Perché ci riporta sempre nello stesso punto, però è anche questo, porta anche via, l'ombra della bambina, perché di chi va sempre alle ore crepuscolari, no? Con le ombre lunghe, che rende ancora più inquietante questa cosa, no? E poi c'è l'architettura sua solita, questo angoletto che passa la bambina, e lo sfondo, è incredibile questo qua. Sì, quindi la ruota, grande oggetto di utilità, ma anche di tanti pensieri, di tante filosofie, è anche poetico a suo modo, anche come in questo quadro. Esatto. Assume. Per esempio, io avevo citato qui nello scritto che ho fatto la ruota delle rinascite, no? Che è appunto il concetto indiano, no? del samsara, cioè tutto questo continuo girare delle vite che si deve cercare in qualche modo di fermare, no? Una ruota, loro la rappresentano come è una ruota con i vari raggi che vanno al centro, i vari raggi sono le nostre vite, le nostre rinascite, ce ne sono tantissime, continuano a girare. Sì, i raggi sono infiniti, volendo. Esatto. Dividendo la metà di ogni all'infinito, entra sempre un raggio in più, no? Ed è interessante come questo concetto di ruota, di ciclo, anche prima che si parlava della storia, no? C'è chi sostiene che la storia è ciclica, c'è chi sostiene che il tempo sia ciclico e non lineare, chi dice che tutto ciò che accade negli esseri umani, nell'umanità, insomma, ha forma circolare e non lineare, quindi no? Anche il rapporto, si diceva prima, bene o male, non è che il bene sta da una parte e il male sta dall'altra, il bene e il male sono messi in cerchio. Quindi possono coincidere, esatto. Quando la ruota gira vorticosamente arrivano a coincidere, no? Quindi in questo caso il concetto di ruota, di ciclo, ci dà anche dei modi per comprendere quello che ci sta intorno, no? Quello che è proprio un concetto che ci aiuta a capire le cose. Non c'è necessariamente un inizio e una fine come nel lineare. A proposito di circonferenza, leggevo sempre di quello storico dell'architettura che ha scritto sulla porta. Lui aveva fatto anche come oggetto, aveva esaminato il tavolo e parlava del tavolo circolare, come quello, che è un tavolo democratico, perché abbiamo tutti un posto che non è privilegiato, non è privilegiato, c'è il capotavolo rispetto a un tavolo appunto rettangolare o di altra forma. Quindi la ruota è anche democratica, perché mette tutti, come si diceva prima, equidistante. Beh, direi che no, forse no. Altri esempi, altre esperienze mancano. Sì, se avete qualcuno vuole questo rapporto intimo fisico che io vi chiedevo, se ricordate, ecco, sulla ruota, su quel adesso io mi ricordavo questo episodio da bambino. Valerio ci ha raccontato questa dell'astronave. Cioè non so, nella vostra vita, quando questo oggetto, questo concetto vi è apparso in maniera tangibile, vi è apparso. Beh, la trottola. Ecco. La trottola è forse il primo oggetto da quando sei piccolino, io pure me lo ricordo. Che ficata! Si faceva così. La trova che ficata la trova. Mi sorpreso, no, è vero. Quanto era bella. È vero. E stavi lì a guardare. Era una magia. Come faceva a stare su? Esatto. E questo era. Esatto. È vero, la prima cosa che tu pensi, proprio quella, questa cosa è magica, effettivamente. ed è il principio rotante che la tiene su. Esatto, però forse anche l'universo crollerà quando si ferma di ruotare come la trottola, potrebbe collassare totalmente. Probabilmente. Ci sono tanti oggetti che comunque io sempre odiamo perché non potevo controllarlo. Dovevi motorizzare. Hai confessato, eh? Sì, sì. Però quando sono diventato di meno controllare le cose, ho iniziato ad essere molto bravo. Non mi piaceva più niente. Poi c'erano tutti gli altri che erano molto più bravi. Dove... Queste sono le cose con il cavo e quella cosa che girava il trotto. In inglese non mi ricordo di più come si chiamava. Un odio, proprio un odio viscerale. Ho bloccato delle mie memorie perché, per questo probabilmente. Poi c'è l'ulu il salvagente, forse da bambini. Ah, è vero, anche il salvagente, una cappella. Poi invece c'è la cosa della salvezza, il braccio, tutto non avevi la ciambella, no, no, il braccio. Ma sempre circolare, la ciambella da mangiare. Comunque, ai tempi, cioè oggigiorno, almeno per me, il rapporto più assurdo che io ho con la ruota è quello di quando buco la ruota della macchina, cioè la odio quando non anche piace, pure essendo capace, bravissima, esatto, a cambiarla non è più, quando ti capita proprio sì, però non solo ti incazzi, però hai ti un senti... rapporto cioè materiale proprio, però sicuramente tra i guasti è più risolvibile se una macchina. No, io ricordo la ciambella, lo dicevo prima. Il rapporto che ho avuto con la ruota, a parte volevo fare una ciambella? Battuta prima, mi ricordo i Flintstone quando nel cartone animato avevano la ruota, cioè che non era di ruota, era ruota ma era una specie di forma che poi era da ruota, sì, no? Sì. Era un circolare, no? Sì, mi ricordo i cartoni animati che loro saltavano perché era quadrata, dopodiché hanno deciso di insegnare di farla rotonda. Però il mio primo rapporto con le cose tonde, che per me la ruota, oppure io, il mio oggetto preferito, ma fin da piccola, è la palla. Chiamatela anche ruota, quindi. Perché per me è simbolo di perfezione assoluta. Bella, spera, per me a livello psicologico è la ricerca della mia perfezione, perché non credo che l'essere umano sia così perfetto, no? Per cui... la mia visione è vedere la palla come la perfezione che a me manca. Soprattutto quando entri nella rete. Tu vedi sempre diventare una palla, No, divento una palla quando ingrasso, però va benissimo anche quella. Così si può rollare sulle strade. Cos'era quel film? Arrivo prima. Però è bellissima questa cosa. Oppure la ciambella di quando eravamo bambini, no? C'è chi usava i braccioli, io adoravo la ciambella. Ah, salvagente. Che oltretutto ti... Ti sostiene uno. Cioè, a meno che non scivolavi e affogavi lo stesso. Però era bellissima perché ti reggevi, quindi era un elemento fondamentale. Sì. Sì, bellissimo. E certo. Però la palla, questa forma... Che poi la palla non è altro che tante circonferenze... Le puoi disegnare, no? Fatte circonferenze. È certo. È una sfera. Sì, è una specie di... È una rotazione della circonferenza. No, no, un'altra cosa che notavo è il verbo, per esempio, nella lingua italiana che più si lega alla ruota, è, vabbè, ruotare, che è un po' tecnico, forse. Però girare, ma girare si usa tanto in italiano, anche in sensi, no? Ti girano le scatole, ti gira la testa, questo tipo... Questa tipa mi sta girando intorno, no? Ci sono tanti modi. Sono in giro. Cioè nella lingua italiana il concetto di ruota, di girare, di rotazione si infila spesso dentro. Infatti girare è un verbo abbastanza generico, abbastanza usato, no? Sì. Adesso me ne vado in giro, per esempio, no? Stavo gironzolando. Oppure mi girano, visto che girano. C'è scritto anche nel testo. Sì, sì, esatto. Quindi c'è questo concetto, no? Qui girare sembra quasi un'inquietudine, no? Sì, sempre il senso di essere. Sempre nel suo centro, che è l'idea che te la fa girare, forse, no? Beh, quindi vedi, questo centro può essere anche può essere il luogo dove, che poi appunto, no, il centro di un pianeta è misterioso, insomma, no, il viaggio al centro della Terra, no, credo che sia una mitologia un po' di tutti noi, insomma, sì, non lo so. Certo. Quindi il centro è quel luogo dove, beh, i buchi neri, no? Cioè quel luogo dove è possibile appunto l'antimateria, insomma, sì, no? Quindi il bianco e il nero insieme, no? Il buono e il cattivo insieme, no? Ecco, no? Sì. Quindi se abbiamo detto la che ficata quando abbiamo inventato la ruota, perché ci dà più serenità, perché poi ritorniamo nello stesso punto, beh, però in realtà c'è invece insito tutto, siamo anche in giro, no? Quando andiamo in giro leviamo gli ormeggi, no? E usciamo, no? Andiamo in un luogo, ecco appunto quello della bambina, quel coso, no? Che ci porta in luoghi altri, no? Beh, a parte i nostri mezzi di comunicazione, no? Il più comune, insomma, io credo che la nostra civiltà passerà alla storia per quelli che, questa è una parentesi, per quelli che, non so, i musicisti del 600, 700, 800, no? Invece appunto noi siamo quella civiltà, tutti quanti noi qui in Occidente sappiamo guidare, no? È la cosa che tutti in assoluto sappiamo fare, la macchina che ha le ruote, no? Che sappiamo fare, non solo, ma come Mozart sapeva comporre contemporaneamente due cose mentre ne pensava una, ne appuntava un'altra, eccetera, diciamo, ma come cazzo faceva quello, avere, no? No? Ok? Noi mentre guidiamo, mangiamo un panino, ascoltiamo la radio, telefoniamo, no? Ecco, quindi secondo me una delle abilità che passa più una delle abilità più comune, no, della nostra civiltà occidentale, proprio quello del guidare, no? Beh, io penso che se viene adesso un alieno qua e dall'alto osserva questa cosa di macchine che vanno in giro, dice: ma come fanno questi a non fare un incidente ogni 10 secondi? Perché è incredibile la nostra abilità. Siamo vicini a farlo. Sì. Però siamo bravissimi. No, no, scherzo. Siamo veramente bravissimi. No, siamo migliorati. Sì, ho pensato anch'io. È un'arte che proprio è l'arte più in cui siamo. E è legata alla ruota. Tra l'altro la macchina è una scatola di ruota. Però la che sono sopravvissuti, perché noi in pochi anni siamo autodistrutti, però se guarda la nativi americani 10.000 anni senza problemi, quella di Messico hanno ancora dei casini, però 10.000 anni loro non avevano niente del rotto, però non sono sopravvissuti 10.000 anni, sì. 30 milioni in tutti i Sud America nativi non americani hanno mai usato la ruota. Sì, ho capito, però sono dati, scusate, no scusi, ma con ragazzi ha sbagliato. I nativi americani erano 30 milioni, erano nell'America del Nord per 10.000 anni e sopravvissuto 10.000 anni sempre nello stesso modo, e noi in 200 anni abbiamo distrutto tutto. Cosa? Beh, ecologicamente non dire, se non lo sapete, la civiltà sudamericana, il pianeta sta per finire. No, a me non risulta, mi risulta che sta finendo il pianeta. L'hanno detto tante volte. Forse devi essere nel porto di Napoli ieri, in cui sono prodotte le grandi nevi così. Oppure però nel mio giardino. In sì, ma sicuramente, non sono un negazionista. No, però sto dicendo che solo tutto, che in queste civilizzazioni, anche in Australia, che hanno sopravvissuto migliaia di volte molto più di noi, con l'Europa, nessuno di loro aveva un'Europa. Adesso sì, la nativi americani non c'è la rotta, la Australia non c'è la rotta, ma in effetti non è colpa della ruota, però la tecnologia ha sbagliato come tutte le però è interessante le tecnologie. Che altre cose che abbiamo, però non aveva la rotta, però la tecnologia dipende molto dalla ruota. Ma sono scomparsi, non avevano la ruota, ma sono scomparsi, sì, l'isolvi perché hanno distrutto la natura. No. Sono arrivati al collasso della loro civiltà perché avevano distrutto il loro habitat, no, non avevano la ruota, no, ma l'hanno distrutto. La Maya era erano fortissime fino a 1500 quando sono arrivate le spagnole. Le Maya esistevano. Le Maya sono spariti prima degli Aztechi. Sì, ma esistevano. No, Messico, Maya, la città di Messico è Maya. Gli Aztechi sono stati distrutti dagli occidentali. Non è nemmeno colpa nostra, dagli spagnoli. Noi hanno usato il mano pesante qui. Per questo ho detto in sud, il Messico sud con c'era popolazioni, bravo, come i Maya con le altre popolazioni. Cioè non mi vengano a dire che gli occidentali sono degli imperialisti. In Africa chi vendeva gli schiavi erano africani. Sì. Ah, ecco. No, e loro avevano gli Aztechi hanno distrutto tutte le popolazioni, la storia delle popolazioni limitrofe, tanto quanto hanno fatto i Romani. No, però aspetta, tanto no, però c'è una cosa, scusami, in questo ti devo subito corretta. Hai ragione, i Romani non hanno distrutto. E comunque nella storia non ci sono buoni cattivi. Bravissimo, ti pare poco? Ti pare poco? Io volevo definirmi quello che hanno fatto gli spagnoli in 10 anni è spaventoso. Cioè Traiano poteva distruggere la Romania, non l'ha fatto. No. Anzi, ha creato un popolo che si chiama ancora ed è un operai rumeni che mi spiegavano che noi lì ancora abbiamo il mito di Traiano. Io ci scherzavo, dicevo, ma come hanno bastonato? Sì, sta sulla colonna Traiana, va a vedere, sì, cioè, ma non hai capito una cosa, che come un padre, quando ti massacra e tu capisci qual è quello più forte, poi impari, purtroppo. Questo gli spagnoli non hanno proprio capito, hanno distrutto e basta, perché erano accecati da loro. Questo non è una cosa che i romani facevano, sapevano fermarsi, no, no. Diciamo. Se no non avrebbero avuto una civiltà che durava. Ma tanto anche i persiani in realtà hanno inglobato altre popolazioni. È vero quello che hai detto, però si sono fermati al momento giusto e poi alla fine sono stati fermati, diciamo la verità. Non so come sarebbe il mondo se quei pazzi di 300 non si fossero messi lì, perché poi alla fine uno glielo riconosce, i greci sono speciali in tutte le cose, alla fine arrivano come Sibra sull'ultimo minuto e te fanno quella cosa, certo. E ci ammazza, ci sono riusciti. Torniamo alla roba per vedere che ma anche in Irlanda, anche vedere Irlanda, la storia di Irlanda è Olanda. Irlanda è sanguinosa, non è vero, ma i belli romani, i romani hanno. Allora, adesso, però voglio sapere quando c'era sempre il rot, perché il problema con il rot è che non devi lavorare. Appunto, fatichi meno. Con tutto rispetto. E quando è proprio liscio. Infatti hai parlato di sopravvivenza, tu hai usato un termine. Però senza lavorare non lo so. Che la degli americani hanno vissuto bene fino al 1900. Quindi tu sei per la decrescita felice, andando a provocarti in maniera diretta. Esatto. Adesso stai imperando questa nuova forma di economia. Io ho risposto su Facebook, sì, come l'impotenza eccitante. Cioè, ma che discorso è? La decrescita è un concetto che nega la stessa natura umana. Noi siamo partiti dalle palafitte, abbiamo creato la ruota perché dovevamo muoverci, abbiamo fatto l'agricoltura. Siamo andati nello spazio con Kubrick e adesso dobbiamo dire che ci sono popolazioni che stavano stabili, vero, con pochissimi concetti elementari, con un'antropologia che li ha studiati come popolazioni in equilibrio, ma non avrebbero potuto mai, forse a te non interessa, pensare che un mondo concepito così è statico. Io sono molto, forse perché mi piace il pericolo, sono molto più attratto all'idea di umanità che si sfida e che quando vede che sta crollando su se stessa la natura, che forse ha messo in grave crisi, saprà trovare la via d'uscita, ne sono sicuro, perché nessuna civiltà, tranne quella dell'isola di Pasqua, si è autodistrutta, perché è anche carino pensare che tutte le civiltà hanno avuto i momenti di pericolosa autodistruzione, perché l'isola di Pasqua ce l'ha avuta l'opportunità, no? Tu la sai, quella vendicata scientificamente, quindi... Comunque ecco, gli scolperai la ruota da tutto ciò, non so. No, aspetta, è bello perché la ruota serve a questo. Sì, cioè, la ruota serve, perché se restiamo sul concetto, la ruota serve a far girare i concetti, questa è una forma astratta. Però Antonio, sì. Sarà difficile, il problema sono i soldi. Quindi c'è, cioè, il business di sfruttare il mondo, che so, di sboscamento, tutto ciò che va contro l'ecologia, no? Tutto ciò che è altro all'ecologia, provoca la grande, come diceva lui, oppure i tsunami, è legato a cose economiche. Lo so. Infatti ho detto, quindi il mondo si sfida, no? Sì, c'è una parte del mondo che è per l'ecologia, che rispetta la natura, c'è una parte invece, dicono che sono le chiamano multinazionali, che hanno grossi affari, danno lavoro a miliardi di persone, e quindi sarà molto difficile vincere questa sfida, perché quando ci sono i soldi di mezzo, la gente pensa, io campo i miei anni, voglio campare bene, sì, non mi interessa che rovino il pianeta, sono problemi che vengono dopo. Sì, ma è un sistema sicuramente che difficilmente si riequilibrerà in maniera con automatismo, diciamo. Però a me ha colpito una cosa, che Obama ha fatto quello che 20 anni fa non si era fatto, quando a Kyoto si tentò di coinvolgere gli Stati Uniti, questa volta sono stati gli Stati Uniti che forse, come mai questo? E la Cina stessa, che sta avendo una piccola crisi, diciamo così, di produzione, sta andando verso i problemi, diciamo, del consumo energetico in maniera molto forte. Quindi voglio dire, non è che un sistema si può autoregolare, certo, io credo nella complessità del mondo, credo nell'uomo. Bravo, questo volevo dire, perché le civiltà si sono io sempre... sono mai creduto in me. Allora come mai è lì sono un po' le posizioni, ma siamo qua, scusa, abbiamo superato la spagnola, abbiamo superato la caduta dell'impero romano, ma io credo in alcuni uomini, non del mondo in generale. Io credo nell'uomo invece, perché l'uomo ha una grande ruota, ecco, torniamo alla ruota, una grande ruota di invenzioni, di cercare di migliorare, di lanciarsi oltre gli ostacoli. Se noi pensiamo ai passi avanti che ha fatto l'uomo. Sì, avanti e indietro non si sa, comunque si muove l'uomo. Non solo si muove, ma ragazzi, siamo una specie che sta durando nel tempo. È riuscita a colonizzare terre che vanno dal polo nord questo è l'anno buono, cioè, ma hai visto la faccina di qua quelle... hanno distrutto, sono molte persone di loro che trovate la faccina, è possibile pensare che siamo stati fermi, no? Qualcosa, cioè, tutte le cose la che io erano importanti per la mia, lo vediamo e capiamo che qualcosa è successo, se non saremo qua. Sì, è vero. Ma questo è un discorso che io ho sentito fare siamo anche già dai molto passato, alla fine siamo già passato alcuni anni fa. Sì, io non credo molto nella speranza. Sono tanti anni che dicono che la Terra finirà. Ogni 10 minuti c'è una data di fine della Terra, di autodistruzione dell'uomo. Siamo già autodistruzione. Già torniamo al ciclo, diciamo. È un ciclo, è un continuo un ciclo, ciclo. Cioè, quello che io vedo con i miei figli è che quello che piace a me, ad esempio la musica, la mia musica non è compresa dalle nuove generazioni, che hanno un altro tipo di musica che io non apprezzo, perché sono legato a differenti concetti di musica. Certo. Ma la musica non è finita, va avanti. E questo è bello quello che hai detto, va avanti, non vuol dire che se io non comprendo la musica delle generazioni che stanno venendo, la musica è finita. Non so, io sono ancorato come in un porto. Sembra banale, ma quanti miliardi siamo? Ma scusate, ci pensate mai a questo? Qualsiasi organismo vivente, se cresce, tra virgolette, in maniera assurda, vuol dire che migliora. È una legge naturale. Che poi questo sappia affermarsi senza autodistruggersi è una sfida, ma questo è sempre stato. Le pandemie nella prima guerra mondiale uccisero 50 milioni di persone. Sono 20 anni che sta dicendo che arriva la pandemia, siamo arrivati, io me la sono studiata questa cosa interessante. Siamo arrivati a fermare la SARS, mi sembra in 8 settimane, no? Sono riusciti a trovare, cioè questo è spaventoso se ci pensate, cioè l'Organismo Mondiale della Sanità ha fatto uno studio sul campo, è morto un italiano tra l'altro sacrificando il Salvadino, lasciando il testamento dell'idea che lui aveva, ricordate questo episodio? E adesso noi stiamo pensando che l'umanità si sta autodistruggendo, è chiaro che ci sono meccanismi sempre più rapidi, perché ormai le malattie sono micidiali. Però guardate che, hai visto che cosa sta succedendo? Come trasportano i malati? Sì, sì, sì. Avete visto? Sì, quella sì, pure una ruota, no? Pensate a quanto è più veloce il virus nell'evoluzione e quanto noi siamo stati capaci di trovare. E questa è la dimostrazione scientifica che l'uomo è una sfida continua, ma ha sempre energie, quindi bisogna essere ottimisti e pensare che i migliori di noi ma possono salvarci. Questa noi siamo, è siamo cosa, tutti così, adesso, nel male di noi stessi è finita. Sì, quello riguarda anche ciascuno di noi come singolo, no? Cioè noi continuamente facciamo i conti, cioè noi non siamo fermi, no? Non esiste il concetto di... con noi stessi, giusto? Sì, sì, sì. Bravo, con parti di noi che sono complesse, magari sono negative, ci fanno del male, sì, ma poi sono distruttive. Sì, appunto, non esiste... Non esiste in natura, no, dico, ma non esiste in natura la stasi, no? Non no, c'è, no. È un concetto. Tutto si muove. Sì, poi bisogna quando siamo fermi. Per essere proprio filosofi bisognerebbe anche. Ma tu pensa solamente che noi stiamo qua viaggiando a 1900 km all'ora. Sì. E siamo fermi. Sì. Tu somma la velocità che ha il nostro sistema solare intorno alla galassia, che sono 930.000 km all'ora. E siamo fermi, eh? Ma io non sono fermo. Però io sono sì, perfettamente fermo. Eppure tutto si muove, anche se non vogliamo. Eppure si muove. E vedi, stare fermo pur muovendoti la ruota. I sistemi che sono enormemente più complessi di quelli che sono creati dall'uomo. Perché ci sono dei sistemi che sono complessi. A un bambino, diciamo adesso basta, no? A un bambino gli diciamo adesso basta. L'altro ieri sono venuti fuori che ci sono delle... No, no, diciamo adesso basta, stai fermo, mettiti a dormire, no? Mettiamo lì a dormire. Poi anche dormendo noi ci muoviamo e sogniamo, no? Ma anche stando fermi, no? La mente va sempre. Anche se diciamo la correggono, la correggono, però diciamo sul fondo è la teoria della verità rimane, la teoria della verità rimane. Sì, però è chiaro che sta organizzandosi una visione completamente nuova. La nostra ignoranza è immensa, dobbiamo ancora colmarla. Adesso siamo vicini. Non lo so. E permettere il sesso con le rotte? Perché io stavo pensando di questo discorso delle persone stanno ricostruendo, migliorando, c'è un fatto di sesso che le persone più giovani di noi, io ho fatto un bel ricerca di questo anche personalmente, sono tornato a New York, nelle stesse poste, nelle stesse persone con chi ho fatto sesso negli anni 80 e negli anni 90 e ho trovato, e poi ho fatto un po' di ricerca con i miei amici che sono fanno, non mi ricordo nemmeno in inglese, quelli che studiano il cambiamento del DNA, sono di meno sexy. Meno sexy. Le donne sono di meno voluptuous, gli uomini sono di meno virile e le neonati molto di più. Infatti, i piselli sono più piccoli, questo è un fatto, il successo dell'involucro del container di yogurt, eccetera, c'è questi temi che fanno. Però le persone, gli uomini in particolare, l'ho studiato bene, sono di meno sexy, come mai? Sarà un ciclo. Per buttare dentro questo discorso che siamo in grado di migliorare, no? Io ho visto le nuove generazioni di persone di 25 fino a 30 anni, in New York sono di meno sexy verso 20 anni fa. Forse. E non erano le mie idee, avevo questa idea. Posso azzardare? Forse siamo arrivati a un numero tale che forse è meglio che questa attività primitiva della riproduzione di meno sesso è importante per avere di meno ci stanno le PlayStation dovrebbero essere interessanti i mondi voi in fondo essere ancora dei signori che hanno bisogno di provocare meno e quindi abbiamo lasciato Non c'è niente, infatti, sopra. Ma è la capacità, persone normali che dicono basta, io non faccio più sesso. Sì, allora ragazzi, scusate, ricordate che questa è una trasmissione radiofonica, quindi parlare tutti un po' così non è molto significativo. Ma sexy dirono, però questa dello yogurt, questa la vogliamo sentire, questa è un po' carina, che riduce le dimensioni. C'erano le scienze. Non censuriamo niente, però adesso adesso siamo arrivati alla fine. Sì, siamo ragazzi, siamo arrivati alla fine. Allora, sì, però c'è quella dopo. Poi continuiamo dopo. Ma questo è esatto. Parlato dalla Chiesa Cattolica. No, ma abbiamo un'ora canonica, sì, l'abbiamo canonica superata. Canonica è un termine. Lo chiudo proprio in questo. No, comunque è interessante anche questo ultimo discorso sulla storia. Comunque abbiamo dimostrato che con le ruote si può andare molto lontani, anche allontanandosi. Sì, no? Dal tema stesso. Con un tema molto semplice. No, la storia comunque ci mostra tante cose. Ma c'è la pasta nella forma di ruote. Ancora non ruote. No. Ecco, quindi... Ci sono mai piccole che vendono le mele che sono ruote. C'hai fame? Ma loro sono fame. È una battuta carina perché sì, alla fine finisce tutto con la ruota. Sto mangiando tutte le patate qui. Adesso mangiamo. Per cena ci sono le rotelle. C'erano una volta. Erano della base del ruote. Che sono quelle patate. Thank you.